Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quando fai qualcosa di legato al mondo dello spettacolo, fai il cantante, scrivi libri o fai l'attore, come nel caso del nostro personaggio, in genere hai due modi di essere gratificato: il successo di pubblico e il successo di critica. E molto spesso, ahimè, devi proprio scegliere se rivolgerti al pubblico o alla critica. A volte cose adorate dal pubblico sono detestate dalla critica e viceversa. Poi ci sono alcuni fortunati che riescono a fare bingo, cioè a essere amati e apprezzati dalla critica, ma hanno anche successo. All'interno di questa discriminazione però ci sono personaggi che hanno successo di pubblico e di critica, ma rimangono in qualche modo imbrigliati in un ruolo, cioè la gente se li immagina sempre in un certo modo. E oggi parliamo di un grande attore, un attore di Hollywood che ha recitato in molti film e ha solcato i palchi teatrali di tutto il mondo, ha interpretato qualsiasi tipo di ruolo, eppure il suo problema maggiore è proprio questo: essere abbinato al ruolo del cattivo. Oggi parliamo di un uomo poliedrico, magnetico, affascinante. Parliamo di John Malkovich, che oltre che attore è un grande regista, è un produttore, è proprietario di un marchio di moda maschile, insomma è uno che ce l'ha fatta. Lui però ha in testa un'idea chiara: nelle interpretazioni non ci sono i buoni e i cattivi, ci sono i grigi, è una cosa che io approvo e per la quale mi batto da una vita. È la vita che è variegata e ricca di sfumature come il colore grigio. Sante parole. Dobbiamo avere rispetto per tutte le creature viventi, eccetto che per la polizia, la gente che lavora nel governo, i banchieri e tutti quelli che hanno il potere del denaro e sfruttano le persone semplici. Ti dico, rubare a queste persone è permesso. Ma ricordati, chi vuole troppo è un pazzo. Questo che abbiamo ascoltato è un chiaro esempio di quello che si diceva. Malkovich interpreta spesso personaggi ambigui e non facilmente identificabili, come nel film drammatico Educazione Siberiana, diretto nel 2013 da Gabriele Salvatores. È un film che narra le vicende di una comunità criminale siberiana in Moldavia. Lui interpreta la parte di Non Cuzia, mentre pulisce e rimonta una pistola davanti al nipote Colima, cerca di insegnargli quelle che lui considera le regole della vita. E le parole che usa sono crude, violente nei confronti di specifiche categorie che lui disprezza, come i poliziotti e i banchieri. È un ruolo difficile che sembra cucito addosso a lui, a John Malkovich. Sai, romene pucela, bubamara soseacela, vela, vela, la charle, bubamara coca pocine, peiro malen asune. John Gavin Malkovich nasce nella città di Christopher, nell'Illinois, il 9 dicembre 1953, però cresce in una piccola città mineraria che si chiama Benton. All'epoca quella è una zona povera, le possibilità di carriera sono molto poche. Il padre Daniel Leon Malkovich ha origini croate, è l'editore dell'Outdoor Illinois, un magazine conservatore della zona. La madre, Jo Ann Choisier, ha invece origini scozzesi e tedesche e si mantiene lavorando come giornalista presso varie testate. Malkovich è il secondogenito di cinque fratelli, sono tre sorelle più piccole, due maschi, e lui con loro non ha sempre rapporti amorevoli. I rapporti con i miei fratelli non erano dei migliori. Mi capitava spesso, per esempio, di svegliarmi al mattino con mio fratello più grande che mi scorreggiava in faccia. E poi lottavamo ogni giorno per il cibo. E mentre mio padre cercava di imporre la sua disciplina e la sua autorità in famiglia alzando il volume della voce, mamma alzava semplicemente il volume della radio. La famiglia Malkovich è considerata una tra le famiglie che hanno promosso il movimento ambientalista nello stato dell'Illinois. Lo stesso John subisce questa influenza. A scuola non va benissimo, ha un rendimento altalenante perché da bambino è in sovrappeso, i compagni lo prendono in giro, però Grazie a quest'aria, diciamo, di ecologia che si respira a casa, viene incoraggiato a fare domanda per lavorare come ranger in una foresta. Lui vuole seguire le orme del padre, che è un esperto di problemi ambientali, poi vuole laurearsi in scienze dell'ambiente, poi però abbandona questa idea per frequentare un corso di recitazione nella città di Charleston, dove incontra e si innamora di una ragazza che si chiama Glynn Hedley, e grazie a lei si avvicina al teatro, quasi per caso. All'epoca dell'università, a metà degli anni 70, Glynn era la mia ragazza. Studiava teatro e io la passavo a prendere tutte le sere. Spesso capitava che rimanessi ad assistere alle sue prove e ho trovato subito molto interessante quello che faceva e soprattutto facile da fare. Glynn riesce a fargli fare un provino e John comincia a capire che è tagliato per il teatro. Fa la sua prima esperienza interpretando The Lover di Harold Pinter. Però all'inizio il teatro è un hobby, un divertimento, un modo per stare assieme alla sua ragazza, a ragazzi della sua età. Glynn Hedley comunque poi diventerà sua moglie. Però nel frattempo, insomma, non è l'unica persona che lui frequenta tra quelle innamorate del teatro. È molto amico di un altro ragazzo che diventerà famosissimo per essere stato il tenente Dan nel film Forrest Gump, Gary Sinise. Insieme a lui Malkovich fonda una compagnia teatrale, la Steppenwolf Theatre Company di Chicago. Però questi ragazzi devono fare i conti con la mancanza di mezzi, bisogna arrangiarsi per trovare un posto per le prove, insomma alla fine sarà lo scantinato di una chiesa che farà il caso loro. E in 6 anni di attività con questi Steppenwolf, tra la metà degli anni 70 e i primi anni 80, Malkovich recita in più di 50 spettacoli. È una gavetta dura, soprattutto dal punto di vista economico, però è una gavetta che avrà un peso determinante nella sua evoluzione di attore e nella sua affermazione futura. Il falco e il gabbiano. La prima compagnia di John Malkovich si chiama Steppenwolf ed è lì che lui fa la sua gavetta, passando anche da tempi duri, insomma bisogna arrangiarsi come si può. Per 6 o 7 anni, mentre recitavo con gli Steppenwolf, tutti noi dovevamo guadagnare. E per farlo abbiamo dovuto cercare dei lavori veri. Io, per esempio, ho fatto 1 milione di cose. Ho lavorato in un negozio di forniture per ufficio, ho guidato uno scuolabus, ho dipinto le case e ho perfino lavorato per una società di giardinaggio tagliando le erbacce. Però nonostante queste difficoltà, forse proprio per queste difficoltà, l'amore per il teatro resiste in Malkovich. È proprio lì che nasce la sua intensa presenza scenica, è quella che lo porterà al successo poi sul grande schermo. Lui si diverte a recitare in teatro, forse perché nel farlo cerca di riscoprire la sua infanzia, si sente a suo agio, insomma sembra che questo sia un mondo che conosce da sempre. È lì che lui comincia a liberare il suo grande istinto comunicativo. Per me il teatro è come un dipinto. Mentre i film sono come dei rapidi e semplici schizzi, quasi degli scarabocchi. Cinema e teatro tra di loro non sono nemmeno cugini. È vero, entrambi ti permettono di fare grandi cose in modo diverso, ma è il teatro il solo che mi ricorda molto la vita. Grazie a lui ogni replica non è uguale a quella precedente, così come nella vita. Quello che facciamo oggi sarà necessariamente diverso da quello che faremo domani. Eh sì, il teatro e il cinema richiedono un diverso tipo di concentrazione. E forse per spiegare meglio questo fatto che Malkovich racconta così il paragone tra cinema e teatro, crea questa curiosa similitudine. Il teatro è più come un tentativo di afferrare un treno in corsa sperando di salire. Mentre con la recitazione cinematografica è come se si stesse spingendo il treno su per la collina assieme ad un gruppo di persone, sperando però che non rotoli indietro e uccida tutti quanti stanno dietro di lui. Questo di solito accade molto spesso, ma si sa, così è la vita. E il debutto sul grande schermo avviene nell'84 col film Le stagioni del cuore, diretto da Robert Benton, e da questo momento a fianco del Malkovich attore teatrale nasce un Malkovich stella del cinema e interpreta dei personaggi talmente radicati nella memoria del pubblico che si fatica a non legare il suo nome a figure ambigue molto affascinanti. La sua interpretazione nel film Le stagioni del cuore gli procura una prima nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. È una partenza col botto. Il suo personaggio è quello di Mr. Will, che è un reduce che ha perso la vista durante la Grande Guerra. Viene inviato come inquilino a casa di una giovane donna per aiutarla a gestire una fattoria di cotone nel Texas degli anni, siamo negli anni 30, in piena depressione. L'attrice che interpreta Miss Spaulding, la proprietaria della tenuta, è Sally Field, quella che poi sarà la madre di Forrest in Forrest Gump. E qui Malkovich fa proprio un lavoro da attore di teatro. Qui non è ancora ambiguo, tenebroso, cinico come sarà spesso in futuro. Qui è un bonaccione, un timido che comincia a sentirsi attratto e coinvolto dalla voce calda di Miss Spaulding, però non può vederla, muore dalla curiosità di sapere come sia fatta fisicamente e alla fine coglie l'occasione per fare questa timida ma inevitabile domanda. Signora Spaulding, le posso fare una domanda? Sì. Com'è lei di viso? Ho i capelli molto lunghi e li tengo raccolti sulla nuca. E ho gli occhi castani. Avrei tanto voluto averli azzurri, come mia mamma. E i miei denti sono un tantino in fuori. Perché io mi succhiavo il pollice, lo facevo sempre da bambina. Non sono una bellezza. Grazie. L'acqua bolle. Nel 1987 Paul Newman dirige il film Lo Zoo di Vetro e chiama Malkovich. Gli fa fare la voce narrante e anche l'interprete di un giovane scrittore di poesie che sogna di vivere grandi avventure al cinema. Tom è il nome del personaggio, ha un rapporto conflittuale con la madre che ha su di lui un affetto troppo protettivo. Lui si ribella, litiga animatamente con la madre e poi però è sempre lui a chiedere scusa. D'altra parte è un uomo, si sa, tra l'uomo e la donna è l'uomo che chiede scusa. È un Malkovich che inizia a misurarsi con un personaggio che vive dei conflitti interiori. Insomma, questa sarà una delle caratteristiche comuni a molti dei suoi personaggi futuri. John Malkovich ha una carriera lunga a fianco di grandi registi hollywoodiani, non solo con Paul Newman, l'abbiamo ricordato per il suo film Lo Zoo di Vetro, e lui ha partecipato a film con registi come Steven Spielberg, Woody Allen, Luc Besson, Wim Wenders. Nel film dell'87 L'Impero del Sole, per esempio, lui è diretto proprio dal mago del cinema Steven Spielberg. Prende Malkovich per interpretare Basie, che è un ladruncolo americano cinico, rinchiuso in un campo di prigionia giapponese. È uno che pensa che tutti i mezzi siano leciti per fare soldi, e prende sotto la sua ala Jamie, che è un giovanissimo Christian Bale, diventerà poi famoso nei panni di Batman. Basie instaura con Jamie un rapporto di amicizia, lo accudisce, gli insegna dei trucchi per sopravvivere nel campo. In uno spezzone molto famoso nel finale, la vera natura di Basie, cioè una natura opportunista e interessata, si rivela al giovane Jamie. Io ti darò un'intera stramaledessa macedonia di frutta, Cristo, giù dal cielo, ci piavano frigoriferi gonfi di roba, hai capito? Ma lui era mio amico! Lui era un giapponese! La guerra è finita! Io non ti ho insegnato proprio niente allora, eh? Sì, mi hai insegnato che la gente farà qualunque cosa per una patata. Andiamoci. Andiamo, ti riporto da tuo papà, d'accordo? Ti puoi ritirare. Riempiamo la piscina e facciamo tre pasti al giorno. Jim, Jim! Malkovich comincia a fare conoscere l'anima cinica dei suoi primi personaggi cinematografici, comincia a dare dello spessore a questi personaggi, i primi semi di quella psicologia complessa che saranno poi il suo marchio di fabbrica. Malkovich lo racconta così, questo passaggio, che è un passaggio non facile dal teatro al cinema, per il quale non sempre è necessario solo saper recitare, come dice lui. Per me all'inizio fare cinema è stato veramente duro, non avendolo mai fatto. Pensavo che fosse come costringere un bravo pianista a suonare il sassofono. Nel cinema, inoltre, non sei obbligato a sapere perché un personaggio funziona. In teatro, invece, devi far vivere il personaggio ogni sera. E questo ti permette anche di acquistare una maggiore confidenza con il tuo corpo e con la fisicità dell'attore. E il lavoro di teatro rimane il fulcro della carriera di Malkovich, almeno fino all'88, che è un anno spartiacque nella sua vita. E sì, perché nell'88 lui dà vita a un personaggio particolare, eccentrico, tenebroso, impenetrabile, misterioso, ma allo stesso tempo carismatico. È un personaggio dall'espressione mefistofelica destinato a trasformarlo nel grande interprete che tutti conosciamo. Il falco e il gabbiano. Il protagonista di oggi è il grande John Malkovich, il grande attore di teatro, cioè nasce dal teatro, diventa il grande attore di cinema che tutti conosciamo, con una carriera e anche una vita privata tra le più variegate a Hollywood, dal ragazzo timido e grassottello degli inizi degli anni 70 all'uomo misterioso, con lo sguardo acuto. Lui si è avvicinato al teatro grazie a una sua fidanzata, è diventato un interprete straordinario, un attore tenebroso, ambiguo, con dei ruoli unici, inconfondibili, che lo hanno reso quel grande attore che tutto il mondo ammira. E nel nostro racconto siamo arrivati al 1988, l'anno decisivo della carriera e della vita di Malkovich. Il regista britannico Stephen Frears lo sceglie per interpretare il visconte Sébastien de Valmont, che è un aristocratico francese del XVIII secolo che si diverte a fare dei giochi barocchi, giochi di passione e di tradimento nel celeberrimo e meraviglioso film Le relazioni pericolose. E qui Malkovich raggiunge il suo apice, perché dà a Valmont un'espressione tenebrosa, impenetrabile, misteriosa, però anche carismatica, con questo fascino mefistofelico. Tra l'altro lui farà presa, tra le altre dame, anche sulla marchesa Isabelle de Merteuil, che è interpretata dalla grandissima Glenn Close, che decide di mettere alla prova il visconte perché lo istiga a abbandonare la sua nuova conquista, Madame Marie de Tourve. In questo momento, per esempio, sono del tutto convinto che non vi potrò mai più rivedere. Cosa? Sono talmente annoiato. Trascende ogni mio controllo. Che intendete? Beh, dopo tutto sono già 4 mesi. Se poi vi ho detto che trascende ogni mio controllo... È quella donna, non è vero? Sì, avete ragione. Io vi ho tradito con Emily, tra le altre. Trascende ogni mio controllo. Ma perché fate questo? Sì, c'è una donna. Un'altra donna. Una donna che io adoro. E temo stia esigendo che io faccia a meno di voi. Trascende ogni mio controllo. Bugiardo! Bugiardo! Vero, avete ragione, sono un bugiardo. È come la vostra fedeltà, è un fatto naturale, è una realtà più o meno irritante. Ma certo trascende ogni mio controllo. Smettete! Non continuate a dire così! Ascoltami. Tu mi hai dato un grande godimento, ma semplicemente non posso condurmi a rimpiangere il fatto di lasciarti. È così che va il mondo, trascendendo ogni mio controllo. Madame Marie de Tourve è interpretata da una stupenda Michelle Pfeiffer, molto giovane tra l'altro in quei tempi. La Pfeiffer è un'attrice straordinaria, però è una donna affascinante che Malkovich non si fa scappare. Insomma, lui dà il via nella vita reale a una di queste relazioni pericolose che danno il titolo al film. Infatti i due si innamorano, però in quel momento John è ancora sposato legalmente con la sua prima moglie Glenn Hedley. Alla fine non riesce a reggere entrambe le relazioni e fa la cosa più intelligente, quello che si deve fare in questi casi, cioè lascia entrambe le donne, però addirittura, insomma, la cosa lo sconvolge un po' troppo perché entra in psicanalisi. Per diversi anni ho apprezzato quelle sedute di psicoanalisi. Grazie a loro ho chiarito meglio le idee e mi hanno aiutato a capire che non avrei più voluto mettermi in quelle situazioni scomode e imbarazzanti come quando ho avuto la relazione con Michelle. Da quel momento in poi penso di essere cresciuto ed essere diventato un uomo più maturo. Dal 1988 Malkovich non dovrà aspettare molto per trovare un'altra tranquillità affettiva. Nel 90 c'è un altro film che diventa galeotto per lui. Il film è Il tè nel deserto, un altro film meraviglioso diretto da Bertolucci. Lui incontra l'italiana Nicoletta Peyran, che non è un'attrice. Sentite come ne parla lui stesso in una dichiarazione rilasciata a un giornale un paio d'anni fa. La nostra è una storia d'amore che dura da 25 anni. Abbiamo 2 figli, Amandine e Laurie. All'epoca del tè nel deserto, Nicoletta era aiuto regista e studiosa di culture orientali. Nonostante il cognome francese, che potrebbe trarre in inganno, Nicoletta è italianissima ed originaria del Piemonte, terra con una grande tradizione di vini. Nella nostra piccola azienda mia moglie si occupa di tutta l'organizzazione e a me rimane il solo compito di bere. E devo dire che la cosa mi riesce piuttosto bene e mi sta piacendo un po' troppo. John Malkovich e la moglie Nicoletta vivono nel sud della Francia, hanno una piccola azienda vinicola a conduzione familiare che produce Pinot Nero e Cabernet Sauvignon. A proposito di vino e di alcol, bisogna ricordare un aneddoto che vede protagonista proprio l'attore. Nel 94 c'è in atto l'esecuzione di John Wayne Gacy, che era un serial killer accusato di aver ucciso più di 30 adolescenti. Bene, Malkovich organizza una vera e propria festa a base di champagne per celebrare l'iniezione letale. Contrariamente a molti miei colleghi attori, non ho problemi a dire che sono un fervente sostenitore della pena di morte, tanto da aver organizzato una festa alcolica senza riserve per celebrare l'esecuzione di John Wayne Gacy. Ho spesso scosso l'opinione pubblica con i miei giudizi sulle questioni che riguardano, per esempio, il Medio Oriente e mi considero tutto sommato favorevole alla guerra. Sì, lui ha un'attitudine anticonformista nei confronti della politica, nega un'appartenenza precisa, fa scelte di volta in volta, diciamo, e dà questa impressione di essere consapevole delle sfumature della vita. E lui non è più andato a votare dal 72, dichiara, quando McGovern perse contro Richard Nixon. Quando i giornalisti gli pongono la domanda se non sia un obbligo morale andare a votare, lui risponde non proprio. Sarebbe utile andare alle urne se la politica fosse la soluzione dei problemi, ma in realtà non è così. Anche il più santo dei politici non è mosso da passione. Insomma, anche nel campo della politica a lui piace essere la voce fuori dal coro. E forse la particolarità di Malkovich è proprio questa. Lui ha molte contraddizioni apparenti. Uno che lavora principalmente al cinema, ma che si sente a casa sua in teatro. Uno che è considerato un sex symbol, però trova umilianti dalle scene di sesso. Uno che dice di non interessarsi alla politica, ma che poi invece appoggia decisioni politiche estreme. Insomma, è un uomo con risvolti profondamente umani, che può fare dei gesti bizzarri, come quando decide di inseguire un molestatore che lo infastidiva, oppure gesti lodevoli, come quando nel 2013 salva la vita a un signore di 77 anni che era caduto da una impalcatura. Malkovich è una combinazione di personaggi ricchi di incomprensioni che talvolta prendono a spallate il politicamente corretto. Un volto, il suo, che nasconde una tensione palpabile, che regala allo stesso momento forza e verità, sdegno e passione, confusione e magnetismo. L'aura di stranezza che circonda Malkovich potrebbe essere del buon materiale per un film. Tutto questo, forse, è dato dal suo sguardo, abbellito da un leggero strabismo di Venere. Sì, questo è il bello, lui è un controverso e questa che abbiamo sentito è una descrizione generale del personaggio Malkovich, è una descrizione alla quale i giornalisti sono arrivati nel corso del tempo attraverso varie interviste, e durante una di queste interviste addirittura è venuto fuori che Malkovich ha lavorato a una sceneggiatura di un film che non vedremo mai, come dice lui, perché il suo intento è quello di farlo uscire nell'anno 2115, il titolo è Cent'anni. È un'idea intrigante per chi fa arte. Sono rimasto affascinato dal concetto di lavorare su un film che nessuno vedrà prima della fine della mia vita. Questa è la sua dichiarazione. Mi diverto molto a fare piccole cose in grandi film, parti da cui posso entrare e uscire con semplicità. Prendete per esempio il terzo capitolo di Transformer. Ecco, ho recitato per un solo giorno e spererei che accada ancora. Non mi interessa essere sempre al centro di una storia. L'unica cosa che non sopporto è quell'aggettivo che da sempre mi accompagna: ambiguo. È tutta colpa di quei ruoli, personaggi disturbati. Non è colpa mia se sono attratto dalle personalità ambivalenti. Intendiamoci però, ho fatto 70 film e 100 spettacoli teatrali. E sapete quante volte ho interpretato il cattivo? 7. Quindi, davvero, smettiamola. Beh, in effetti, però, John Malkovich è questo. Se io penso a John Malkovich, penso a questi personaggi magari anche ironici, simpatici, ma sempre fuori dal comune. Un altro esempio, Pascal Sauvage, l'imprenditore losco del film Johnny English, un film del 2003. Oppure il personaggio di Uma Kavula, cioè il sacerdote stralunato del pianeta Viltivodel VI nella Guida Galattica per autostoppisti, un film diretto nel 2005 da Garth Jennings. E John Malkovich donerà altre interpretazioni memorabili in film anche strani, una cosa che traspare che lui scelga bene i copioni, scelga i copioni particolari. Per esempio Nel centro del mirino, un film del 93 di Wolfgang Petersen, è un film che gli varrà la seconda nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. E poi c'è Burning After Reading, A prova di spia, un film del 2008 dei fratelli Coen. E poi c'è un film visionario, particolare, un film che ha visto Malkovich protagonista non solo come attore ma anche come elemento del titolo e come filo conduttore di tutta la trama, cioè Essere John Malkovich, diretto da Spike Jonze nel 1999. È un film che dimostra quanto l'attore sia carismatico, influente e uno degno di una dedica su pellicola. I personaggi che impazziscono per la possibilità di poter entrare nei suoi panni per almeno 15 minuti. C'è una porticina nel mio ufficio, Maxine, ed è un passaggio che ti conduce all'interno di John Malkovich. Non c'è niente che possa assomigliare a un passaggio che porta dentro il cervello di qualcuno. Sì, che c'è. Vedi un mondo attraverso gli occhi di John Malkovich e poi dopo circa 15 minuti... Non sono io. Sei sputato fuori in un fossato che costeggia la New Jersey Turnpike. Non ti sembra strano che in John Malkovich ci sia quel passaggio? Vorrà dire qualcosa, ci sarà un significato particolare. Che cazzo sta succedendo qui dentro? Ho scoperto io quel passaggio. È il mio cervello! Malkovich! Ehi, Malkovich, prendi questo! Cazzo! L'anno 2002 è un altro colpo d'ala per John Malkovich, perché lui comincia a cimentarsi con la regia teatrale e cinematografica, e il primo film da regista è Danza di Sangue del 2002, dove peraltro dirige Laura Morante. È un modo particolare di mettersi alla prova, di misurarsi in un ruolo nuovo, di volersi cimentare in diverse avventure. È un modo che sarà una costante, ma è anche un'altra svolta della sua vita: l'ideazione, la creazione di una collezione di moda maschile chiamata dallo stesso attore Techno Bohemian, nome meraviglioso. Insomma, lui è un uomo completo, pieno di sfaccettature, luci e ombre, è un grande professionista, però in qualche modo riesce sempre a mettere il suo marchio qualsiasi impresa lui decida di abbracciare. Come tutti, anche io ho dei difetti. Uno di questi è mal sopportare la stupidità. Parto dal presupposto che chi mi sta di fronte dia sempre tutto, anima, corpo e cervello, nel proprio lavoro, come me. Ho la tendenza ad un grande perfezionismo in qualsiasi lavoro, che sia a teatro, al cinema o nella moda. Metto dentro tutto me stesso, i miei valori, il mio pensiero. Lavoro con chi mi pare, mi vesto e mi comporto come mi pare. La mia unica regola è la gentilezza. Il resto è superfluo. Eh sì, i fuori classe si distinguono anche per quello, ed è bello che lui chiuda dicendo: però il valore della gentilezza è fondamentale. Ci sono storie meravigliose sui grandi attori, ma John Malkovich non è solo una storia meravigliosa, è una storia particolare. Se volete mandare dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite sui miei social, sui nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno e Davide Motta, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.